E benvenuti a tutti ancora su Radio Alma, i colori dell'anima. Allora abbiamo finito con la trasmissione Nouvelle Bon Savoir e allora riprendiamo. E sono io, Monica, questa volta invece conduco la trasmissione con Cristina. Ciao Cristina. Non si sente niente, Cri? Forse devi alzare il tuo? Ah no, ecco. E poi ci sono qua due ospiti di eccezione. Ecco, forse adesso si sente, infatti. Sì, ora si sente. Ok, quindi allora sono due ospiti di eccezione qua a Radio Alma, i colori dell'anima. E sono Angelo Gregorio, che già è venuto a trovarci diverse volte in quest'ultimo mese. Ormai è un'abitudine. Buonasera a tutti, a chi è in regia, chi è di fronte a me e chi è dall'altra parte del filo. Esatto. E anche un'altra ospite di eccezione, una gentil donzella, Carla Piombino. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Carla. E allora sarà una puntata un po' così, diciamo, piccante, anche se non so se ci sarà peperoncino nel calzone o nei gamberetti. Ma si può vedere, insomma, ci si può mettere secondo i gusti, secondo sì, i sì, gusti. Poi stimola l'assorbimento delle calorie il peperoncino, quindi va messo, dicono tutte le dietologhe. Perfetto, quindi col calzone, con i gamberetti, assolutamente il peperoncino per bruciare i grassi, ecco. E allora tutti si chiederanno cosa sono questo calzone e gamberetti, sì, e perché infatti. Ogni volta che si invita Angelo Gregorio si parla di cibo. Chissà come ti immagina la gente. Ma infatti, un panzone esagerato, più di vabbè, ce l'ho già, però diciamo ancora più esagerato. Ecco proprio. No, e allora, la puntata di oggi ha orato un po' questo titolo, quando l'iniziativa si fa musica. Perché, sì. Allora, avendo invitato più volte Angelo alla nostra trasmissione in questo ultimo mese, abbiamo visto proprio di questo, insomma, l'iniziativa di questo giovane italiano, di questi giovani, appunto, italiani che lasciano la terra, per terra italiana, per venire qua e riescono a esprimere la propria creatività, a esplodere. e quindi, appunto, ti abbiamo conosciuto con il tuo sax, con il tuo solo, ecco. E poi appunto dopo magari ricorderemo, se vuoi ricordare, sì, già adesso. Ma diamo spazio a questo nuovo ingrediente che abbiamo messo in tavola, che sono il calzone e il gamberetto. Esatto, infatti poi hai il gruppo pop e poi adesso c'è calzone e gamberetti, di cui fai parte ancora insieme a Carla e... Benissimo. E ha un altro terzo elemento che elemento. Purtroppo è rimasto bloccato a Waffer-Sebolet, sì, vicino a Charleroi, dunque non è potuto venire. E da una parte ci dicevamo, se verrà, in che lingua parlerà, dato che è belga, perché lui conosce solo il dialetto barese, solo okay. Dialetto barese, vabbè, potremmo parlare dialetto barese, Cristina. Niente di me. Ah, dopo dai, ecco. Salutiamo gli amici di Nouvelle Bon Savoir, ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao. E quindi ritorniamo a tavola. Peccato, ecco. Adesso che si mangiava se ne sono andati. Non sanno quello che si perdono. Quindi un grandissimo saluto a Olivier Fagnuella, che suona il basso con noi nel nostro trio. Basso double, cos'è che è la double bass? Ma in realtà è un basso che è un po' dimagrito. Non è doppio. Quindi ciao Olivier, anche se non capirai niente di quello che diremo, parleremo malissimo di te. Cristina, scusami, un saluto in barese. Ciao. E lui secondo me ti ha risposto dall'altro capo, ciao QG. E quindi appunto calzone e gamberetti, sì. Questo trio formato appunto da voi tre. E quindi qual è il colore di questa sera, Monica? Come non utilizzare come colore il rosa gamberetto? Assolutamente. E allora, niente, prima di iniziare a conoscere un po' questo trio e poi anche le loro iniziative qua a Bruxelles e non solo. Sì, non togliamo subito questo guscio per mangiarci la polpa, aspettiamo un po'. Esatto, io facciamo direi... Facciamo soffrire il gamberetto, poverino. Tra l'altro, ecco sì, avevo visto la vostra locandina dell'anno scorso, bellissima. Ringraziamo Gian Paolo De Pinto, che è fantastico. Grafico, bravissimo. Grafico, sì. Bravissimo. bravissimo, che si è occupato anche della copertina dell'album Dalla ricerca delle radici di Angelo, sì. Quindi ormai è praticamente impiegato ufficiale, sì, nonché del poster dell'Art Tabla, nonché dei Riso Patate and Folk, sì, ecco. Sì. Lui bravissimo, bellissimo, sa visualizzare su carta e nella mente il mangiare e tutto quello che concerne artisticamente il cibo, quindi è proprio vero. Perfetto per voi, è perfetto. Per tutte le vostre creazioni. Poi lui è di Bari, anche lui di Bari si mangia bene, si capisce benissimo con Olivier Fanuel, sono cioè due cugine, è la stessa cosa. È vero, però in Bari si parla, a Bari si parla l'italiano francese, ma quello è per questo, è per questo che tanti pugliesi sono qua. infatti e allora io però direi una cosa, allora ha iniziato questo nuovo anno, questo 2012, tutti hanno espresso in qualche modo i desideri, perché non so se avete saputo, ma dal 3 e il 4 di gennaio c'è stata una pioggia di stelle cadenti, soprattutto si sono viste anche a Foggia in Puglia, quindi una spioggia di stelle cadenti. E quindi io pensavo magari si potrebbe lanciare una notte dei desideri. Una canzone sui desideri. E bentornati sui Colori dell'Anima, Radio Alma. Saremo con voi fino alle 22. E questa sera, ospiti speciali, come abbiamo detto, c'è il trio, che adesso attualmente sono qua in due, Calzone e Gamberetti. Benissimo. E ci manca Olivier Fanuel, il bassista, che non è potuto venire, ma vi manda tanti saluti e vi volevamo invitare di già ai nostri concerti, che saranno ben presto. E per ricordare velocemente le date, saranno il 20 gennaio alla Gutta Pepe, e poi ci sarà un'altra data che diremo un po' più tardi. Esatto, quindi un trio dove c'è un sassofonista, un bassista e una cantante. E voilà. Ecco, e allora direi, conosciamo un po' questa cantante, Carla Piombino. Carla Piombino. Terribile. Presentati, cosa fai, chi sei, come mai qua a Bruxelles? Benissimo, allora, atterro a Bruxelles nel 2009. Sì. E in realtà per uno stage non in canto, ma uno stage post laurea in psicologia, quindi sono stata un anno qui a lavorare gratis per un centro diurno e poi un ospedale psichiatrico, e poi cosa stranissima, bizzarrissima, che non accadrebbe mai in Italia, mi hanno assunto. Ecco, allora hai detto. E quindi sono rimasta incastrata, con molto piacere, incastrata in Belgio, però insomma ho continuato, come già da 8-9 anni, a fare musica e a studiare musica, a fare musica e niente, poi da un anno e mezzo è nato questo progetto bellissimo, questo trio Calzone e Gamberetti. Esatto, quindi tu sei una cantante che canti da 8-9 anni, quindi hai studiato... Sì, ho studiato diciamo da maestri di musica classica, però ho detto no, questa non è la mia strada, poi musica folk, quindi musica napoletana, io vengo da Caserta in Campania, quindi musica folk, musica canzone napoletana antica, e poi ho detto beh, forse ancora non è questa la mia strada, anche se mi piace tantissimo, e poi ho incontrato il jazz, e quindi ho e ti sei innamorata del jazz. E niente, quindi come tutti i cantanti jazz ho iniziato con gli standard, con i brani classici che si imparano nel repertorio jazz, e poi mi sono sentita un po' stretta in questo repertorio, un po', come dire, standard, poi dipende da come li si suona, e mi sono aperta quindi anche al repertorio soul, al repertorio pop, perché no, e poi mi sono resa conto che poi dipende da come lo fai, cioè qualsiasi canzone di qualsiasi repertorio, a qualsiasi repertorio appartiene, poi dipende da come lo fai tu, come lo suoni, con quale arrangiamento, con quale accompagnamento, e quale accompagnamento più strano che un basso e un sassofono. Ecco. Quindi anche un pezzo normalissimo pop può diventare un pezzo assurdo e originale, veramente originale. Esatto, come sentiremo dopo nel vostro CD. E quindi dopo io avevo chiesto anche a voi di così descrivermi un po' anche con delle frasi, con una citazione, con una frase, con una poesia. Non so se tu hai preparato qualcosa. Sapresti descriverti con una situazione, con una situazione, con una frase, con una poesia? Allora, una cosa, Freud mi viene in aiuto. Oh, Freud! Allora, quando ero all'università c'è stata una frase che mi ha detto un mio professore, che in realtà era una frase di Freud, che a me è sempre piaciuta, ossia che tra la sanità, normalità e anormalità è una questione di quantità. E dicevo, ma che vuol dire? Che vuol dire, infatti, quantità? E poi ho capito, cioè che siamo tutti un pochino pazzi, e la differenza appunto da chi è in un ospedale psichiatrico, una casa di cura psichiatrica dove lavoro attualmente, è quanto siamo pazzi. E bah, io mi sento un pochino pazza. Oh, allora un pizzico di follia però ci vuole sempre, certo, nella certo. vita. Giusto ieri avevo visto, non so se hai visto, che tu sei psicologo, ho visto questo film A Dangerous Method, che parla della vita di Jung. In realtà della relazione che Jung ha avuto con Freud e con questa sua paziente che poi è diventata amante. Grazie, perché ti ringrazio. No, io ho fatto psicologia, ma ho fatto il socio psicopedagogico anni fa e ho sempre chiamato ma Jung. Come diceva, effettivamente come diceva Jung, una mia collega, Frua, non Freud. Ah, ecco, vedi, quindi è tutta allora una questione di punti di vista. Esatto, è una questione di pronuncia. Così, ecco. E allora, vediamo un po' se Angelo si è perso in bagno, perché diciamo Eccomi. Ecco. È andata a mangiare, mangi il tuo gamberetto. diciamo che però il gamberetto è ancora qui. Non è ancora cotto, hai cotto il calzone. Sì, ho cotto il calzone per il momento e siamo pronti quasi per sgusciarlo e gustarcelo. Ah, ok, ma allora se ti posso disturbare. Ma disturbami pure, disturbami. Ti abbiamo già un po' conosciuto, però sicuramente per gli ascoltatori che ti conoscono adesso, ecco, in questo nuovo trio, descriviti anche tu con brevemente qualche parola e poi, come ti dicevo, con una frase, una poesia. Io purtroppo non ho una laurea in psicologia, quindi mi risulta difficile citare Freud o qualcun altro, ma cito mia nonna. Ecco, benissimo. Maria o Filò, non lo so. No, quale delle due? Mia nonna Maria di Laurino, di un paesino del Cilento sopra le montagne, e utilizzo lei come mia mentore. Ecco, giusto. E dice così: vai, Maria. Si u pesce tuo magna, la corte le ambon. Che in traduzione, senso, per quelli non... Se ti vuoi mangiare il pesce, ti devi bagnare la coda. Questo per dire che se vuoi fare qualcosa, ti devi industriare. Ed è per questo che io cito mia nonna Maria, perché lei più di Freud ha colto nel segno, perché si u pesce tuo magna, la corte le ambon. Ecco, e quindi allora diciamo che il titolo di questa serata è insomma azzeccato, no? Quando dicevo che quando l'iniziativa si fa musica, perché alla fine queste iniziative... Se posso dire che in questo caso il pesce è un gamberetto. Ecco. Allora proviamo a sentire il gusto di questo gamberetto. Sentiamo il gusto di questo gamberetto. Vediamo se funziona, perché questa sera è una serata un po' avventurosa dal punto di vista tecnico. Ecco, infatti. Allora vediamo se riusciamo a sentire Come Together. Va? Non si sente. Non va. Diciamo che è un gamberetto un po' che non vuole morire. Diciamo che non siamo riusciti ad arrivare insieme. Come Together non c'è ancora. Non c'è ancora Come Together. Allora, visto che per il momento non è possibile ascoltare questa canzone, vediamo un po' da come nasce la scelta dei vostri brani, da dove, com'è il vostro repertorio. Come dicevo prima, diciamo che ci siamo un po', abbiamo pescato qua e là, quindi abbiamo pescato un po' nel repertorio pop italiano, e c'è infatti, se venite al nostro concerto avrete modo di ascoltare dei pezzi di una pazzissima cantante italiana che è Loredana Bertè, come abbiamo pescato anche nel repertorio degli standard jazz, ma sempre con un po' di originalità. Senza impegnarci troppo. e quindi mi sono innamorata di uno standard che si chiama Afro Blue di Mungo Santa Maria, con un arrangiamento assolutamente originale. E poi ci siamo tuffati poi nel repertorio soul, Aretha Franklin, e voilà, abbiamo pescato quella e abbiamo cercato soprattutto di metterci qualcosa di originale, di metterci un pezzo della nostra, del nostro modo di arrangiare, il nostro modo di sentirli. È molto originale perché i pezzi sono scelti, sono svariati tra musica italiana, in inglese, jazz, come tu hai raccontato. Però c'è un trait d'union che lega un po' questo Aspetta, stile. Aspetta, che significa trait d'union? Come che significa trait d'union? Legame, significa tratto un filo, di unione, filo rosso. Filo conduttore. Filo di Arianna. Filo di... Arianna la conosco. Ah, ecco. Bella ragazza, Arianna. Bellissima. Che sta succedendo? Benissimo, questo è un gamberetto di un'altra ricetta. Ecco, allora, abbiamo dopo questo spezzatino il panettone ha variato di diciamolo tempo. Tutto che noi volevamo ascoltare ma i gamberetti. Ma tua nonna Maria doveva venire stasera a cucinare qua. È vero, è vero, è vero. Vai Carla, facci a cappella un pezzo. Dai, che segui durante le serate, non lo so. Sì, facciamo un'improvvisata fantastica, visto che, allora, io vi presento già la voce di Carla. È una voce calda. Sì, sì. È una voce molto calda, molto calda e molto africana, un po' del sud, che ha proprio i colori del sud, il mare, il caldo. Che pezzo ci vuoi fare, Carla? Ma così mi prendete sì, all'improvviso. All'improvviso, certo. Che cosa mi piacerebbe fare? Un pezzo in italiano? O un pezzo in inglese? Italiano, perché un no? Pezzo in italiano. Allora, sentiamo. Che pezzo ci vuoi fare? Come si chiama? Perché no, giusto un aperçu, come dire in francese, della Luna Busso. Va bene, vai. E la luna bussò alle porte del buio. Fammi entrare, lui rispose di no. E la luna bussò dove c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse non ha più tempo. E spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare. Dopo avere pianto un po' per un altro no, per un altro no di un cameriere. E allora giù, quasi per caso, più vicino d'arci a piedi, dove è vero quel che vedi. E allora giù. Grazie, grazie mille Carla, grazie a voi. Grazie, questa è veramente la radio, quando si fa dal vivo, quando si improvvisa. E allora, noi ti ringraziamo Carla. Che cosa, quello che io volevo mettere in evidenza è, come ho già detto, è una voce molto calda, molto profonda, che a me piace molto. Ma quello che manca quando si ascoltano le canzoni di Gamberetti e Calzone Gamberetti sì. È il sottofondo del sassofono. E infatti, proprio perché abbiamo riscontrato dei problemi tecnici con Calzone Gamberetti Audio, magari facciamo ascoltare ai nostri ascoltatori un brano che caratterizza proprio questo involucro di questo gamberetto, che è questa nuova tecnica di suonare il sassofono, che accompagna questo trio nelle serate che potrete venire ad ascoltare. La prossima è? Allora, vi aspettiamo venerdì 20 gennaio alla Gugutta Pepe, che si trova all'Avenue dell'Ippodrome 135. Per farvi capire, di fronte al deposito dei tram. Ed è proprio di fronte al deposito dei tram di Bruxelles che potrete ascoltare Calzoni e Gamberetti e me, Angelo Gregorio, a sassofono. E con questa nuova tecnica. Ed è proprio per questo che vi facciamo ascoltare un brano tratto dal mio CD Alla ricerca delle radici, che sceglierà Cristina per sì, noi. Sì, questo è un brano che mi è rimasto proprio nel cuore, Il vento della cattedrale. E rieccoci ancora qua sui Colori dell'Anima, Radio Alma, saremo con voi ancora per mezz'ora. Allora, la mail, se ci volete scrivere, è radioalma@gmail.com, se volete invece visitare il nostro sito, scaricare le diverse puntate, tra cui anche questa, che a breve sarà in linea, allora andate su, Cristina? www.icoloridellanima.eu. Esatto. E allora siamo ancora in studio, io, Cristina, e Angelo e Carla. Buonasera. Buonasera. Ecco, ancora parlando di questo trio, ecco, dei Calzone Gamberetti. Ma adesso avete appena ascoltato un solo di Gregorio, che è sassofonista. Prima l'abbiamo lasciato un po' da parte facendo parlare la cantante Carla. Però lui partecipa a questo trio con i suoi saxofono, utilizzando anche la tecnica loop, o no? Assolutamente sì, infatti questa tecnica, infatti si dice loop proprio perché, anche se non è proprio propriamente corretto utilizzare tecnica loop, perché il loop è un qualcosa che viene creata, no, è un loop, la loop machine è lo strumento, quindi uno strumento elettronico, una pedaliera che io ho ai miei piedi e utilizzo per creare ogni giorno a lui che utilizzo per creare le composizioni, tra cui quella che avete appena ascoltato, Il vento della cattedrale. E la tecnica che ho sviluppato appunto è invece quella di smontare il sassofono, utilizzare il sassofono stesso, quindi uno strumento melodico, e trasformarlo in uno strumento armonico, ma anche in uno strumento percussivo. Per chi non è del mestiere, lo strumento melodico è lo strumento che suona una nota alla volta, lo strumento armonico è colui che suona più note alla volta. E infatti il sassofono è uno strumento melodico proprio perché è capace di suonare una sola nota alla volta. Ma con questa loop machine diciamo che vado oltre questo muro dello strumento melodico e approdo nello strumento armonico. Ed è proprio che con tutto questo pacchetto, diciamo, che metto a disposizione, e poi con questo è nato Calzone e Gamberetti. Ma prima di questo vorrei ricordare ai nostri telespettatori, mi piacerebbe essere il presentatore che è in te, il presentatore che in me, sì. Infatti il brano che abbiamo ascoltato fino adesso non fa parte di Calzone e Gamberetti, no. Bensì del tuo dell'altro tuo CD, sì, del mio album Alla ricerca, esatto, album Alla ricerca delle radici. Sì, Alla ricerca delle radici, che sarà anche presentato alla FNAC di Ghent il 4 febbraio e alla FNAC di Bruxelles Toisandor, quindi a Port de Namur, il 25 febbraio. Tutti e due gli eventi avranno luogo alle 3 nella sala concerti, nella sala concerti della FNAC, che si trova al di un piano superiore alla FNAC di Toisandor. Ok, quindi perfetto, segnatevi assolutamente questa data, FNAC 4 febbraio, FNAC di Ghent il 4 febbraio alle ore 15 e alla FNAC a Bruxelles sulla Toisandor il 25 febbraio alle ore 15. Sì, che poi è gratuito anche. Esatto, free. Esatto, e quindi niente, ci hai descritto un po' la tua tecnica, la tua Alla ricerca delle radici, la scoperta di questo strumento. momento, perché sì, ce l'avevi già spiegata. E invece la vostra avventura in calzone e gamberetti, quando è iniziata, vi ho detto quando è iniziata, però avete scritto, appunto ho letto, c'era scritto che siete in tre, ma quando cantate sembrate quando suonate, cantate, sembra che ci sia un'orchestra dietro. Sì, ma diciamo che in realtà questo è dovuto fondamentalmente dalla loop station di Angelo, quindi dalla tecnica che Angelo utilizza, che riesce, come avrete potuto ascoltare nel pezzo precedente, come ascolterete nel pezzo che seguirà, di Calzone e Gamberetti, in cui riesce proprio a costruire una sezione di fiati, per cui è un'orchestra. Viviseziono questo gamberetto e così lo diamo a tutto il pubblico presente in sala. Moltiplicazione dei gamberetti. Ma vogliamo ascoltare un brano prima di parlare? Esatto. Sì, diamo agli ascoltatori un po' di il gusto di questa musica. Il gusto di questi gamberetti e questo calzone. Come together. Ed eccoci ancora sui Colori dell'Anima, Radio Alma. Siamo con voi ancora per 25 minuti. E se ci volete chiamare, il numero è lo 02345-2656. In ogni caso siamo qui per ricordarvi anche un altro concerto di Calzone e Gamberetti, che sarà il 9, giovedì 9 febbraio alla Porte Noire. E un altro? E un altro è il 20 gennaio, ed è un venerdì, alla Gugut APP, Avenue de l'Hippodrome 135. Ecco, prima stavamo parlando, tra l'altro, la Porte Noire è un locale bellissimo, vicino alla Place du Sablon. Esatto, sì, e c'è una birra fantastica al miele, che non mi ricordo, Barbar. Ah, sì. Fantastica, e quindi ogni volta che vado lì... Cioè... Beh, è un posto magico, bellissimo, tra l'altro adattissimo per i concerti. Esatto. Sì, sì, assolutamente. E io direi però, facciamo sentire un altro brano, giusto per farvi entrare, gustare davvero a pieno, magari se vi siete davanti a una birra, magari proprio alla Barbar... Insieme a un calzone e gamberetti ci sta questo secondo brano. Afro Blu. Ed eccoci qua ancora, calzone e gamberetti, con Calzone e Gamberetti sui Colori dell'Anima, Radio Alma. E questa era Afro Blu. Ecco, sì. Con questa, con la stupenda voce di Carla Piombino, ecco, molto calorosa, che avete già sentito prima con la sua, ecco, improvvisazione. Qui. Mentre noi cercavamo di mettere il gamberetto nella pentola. Esatto. E allora, appunto, parlando di Calzone e Gamberetti, ma allora... Adesso dovete spiegarmi perché, allora, riso, patate in folk e avete fatto questa tavolata che è andata bene, no? Mi dicevate prima, sì. Ecco, benissimo. Ecco, cucinate anche tu, Carla, tutte quelle robe da mangiare. Ovviamente, una quantità di quiche impressionanti. Ecco, poi adesso calzone e gamberetti. Allora, capisco l'Italia, pure dal sud, venite a mangiare, insomma, è importante. Ma da dove è stato fuori calzone e gamberetti? In realtà eravamo in decise tra frittata di maccheroni, pizza, mozzarella di bufala e compagnia, e poi calzone e gamberetti, poi è arrivato calzone e gamberetti. Ma come mai? Ma ci siamo detti, cerchiamo di essere mediterranei, cerchiamo di non cadere sempre nei cliché, anche se poi inevitabilmente siamo caduti nel cliché italiano. Però ben fieri di caderci, e ci siamo detti facciamo qualcosa che tutti possono pronunciare anche in tutte le lingue, visto che siamo qui a Bruxelles in questo melting pot, questo calderone, e allora ci è venuto calzone e gamberetti, che in francese è calzone e gamberetti, in americano si è calzone e gamberetti, quindi è pronunciabile in plusieurs façons, in cinese è calzone e gamberetti, è un po' come il barese, il cinese. Il barese ha molte lingue, per esempio il francese, il barese è un po' di tutto. È un po' di tutto praticamente. È la lingua del futuro. Imparate il barese, sarete internazionali. E diciamo che questo è un po' il motivo. È nato per gioco, più che altro per gioco questo nome, Calzoni e Gamberetti. Anche perché Calzoni e Gamberetti nasce, è nato un anno e mezzo fa come duo, quindi solo sassofono e contrabbasso. Ecco perché sulle informazioni avevi scritto contrabbasso. Poi dopo abbiamo incontrato questa splendida voce e le abbiamo chiesto gentilmente se si univa. Io non ero d'accordo, poi mi hanno cucinato una cena lunghissima di Calzoni e Gamberetti. L'abbiamo convinta a mantenere questo nome Calzoni e Gamberetti. Fammi capire, l'avete convinta grazie a una cena, cioè praticamente veramente proprio la corruzione con il cibo. Ma dovete sapere, cari amici radioascoltatori, che anche questo il disco è stato registrato in cucina. È incredibile. È proprio fantastico. Cioè, veramente, guarda. Sembra fatto apposta. Si sente l'odore del gamberetto. Sì, eh. Cioè, non avete mai pensato a fare dei concerti in una grande cucina, in ristoranti, per esempio? Ci hai preceduto. Ci stavamo già pensando. Con magari un forno a legna dietro, questo è coreografico. Bellissimo, bellissimo. E poi, come diceva Angelo, nella vita ci sono due cose che si fanno e che anche in periodo di crisi non vanno di moda. L'altra la lasciamo ai radioascoltatori di intendere. All'intuito. È una conseguenza. No, comunque come ben sappiamo, diciamo che Calzoni e Gamberetti prima di tutto porta comunque in grembo la voglia di fare un qualcosa, di portare queste canzoni, questo suonare insieme in un modo accessibile a tutti, quindi con un nome semplice da ricordare, un nome anche un po' frivolo così, che però ha dei contenuti, e i contenuti sono la bellissima voce di Carla, che voi l'avete sentito quel non so che di psicologico nella cantata. È il calore che trasmette ai pazienti. Quello che sembra subito una voce bellissima, perché c'è una specie di lavaggio del cervello. Sì, perché alla fine noi l'abbiamo convinta, ma poi dopo è stato l'inverso. Durante la giornata ascolto, poi aspetta, ascoltatemi. C'è Olivier che sa a memoria Freud, si sta scordando il barese un po', però. A Freud. Vabbè. E quindi, ragazzi, se volete ricordare tutti i concerti che vi avete detto fino ad ora, allora Calzoni e Gamberetti, benissimo, vi aspettiamo venerdì 20 gennaio alle 20 alla Gugutta Pepe, che si trova a XL Avenue de l'Hippodrome 135, di fronte al deposito dei tram, e dove direbbe mia nonna dove stanno i kebabari, perché là è pieno di kebabari. Perfetto, okay. Ringraziamo nonna Maria. Certo. Ecco, grazie. E il secondo appuntamento è giovedì 9 febbraio alla Porte Noire alle 22. E la Porte Noire è un locale vicino a Place du Sablon. Esatto. Place du Sablon è una via sulla, avendo il Sablon la chiesa del Sablon alle spalle, una via sulla sinistra, proprio sulla rotonda lì. Grazie mille. Niente. E invece assolutamente da vedere, da sentire, scusate, da vedere anche alla FNAC, sentire questo album La ricerca delle radici. Sì, lo presento lì con uno showcase il 4 febbraio alla FNAC di Ghent alle 15 e l'ultimo sabato di febbraio, il 25, alla FNAC di Bruxelles Toisandor, quindi a Port de Namur, sempre alle 15 presenterò questo disco alla ricerca delle radici. Primo piano. Sì, primo piano, sì. In fondo a destra. Ma poi se qualcuno volesse comprare il tuo CD, allora, questo è possibile? I vostri CD? Sì, i nostri CD, quello di Angelo Gregorio, Alla ricerca delle radici e Calzoni e Gamberetti, sono acquistabili online, iTunes, Amazon, e poi vabbè, Alla ricerca delle radici sarà in vendita anche nelle FNAC da febbraio, a partire da fine febbraio. Fantastico, complimenti. Per quanto riguarda Calzoni e Gamberetti e i nostri concerti. Certo. Perfetto, allora. E ancora un'ultima cosa, avete dei siti da ricordare? Benissimo, MySpace, www.myspace.com/CalzoneNGamberetti e Angelo? www V. Pronto, pronto. Pronto, sei tu. No, angelogregorio.com e mi troverete in tutte le salse. Ecco, anche salsa di gamberetti. Anche la salsa di gamberetti, la cocktail, rosa. La salsa rosa. Beh, è il colore di questa sera, di queste idee. I gamberetti in salsa rosa, quindi giustamente ritorniamo al colore. Che è una puntata proprio armonica. Cioè, ragazzi, non volevo dire, ma io non ho ancora mangiato il mio trancio di pizza che c'ho lì posteggiato davanti. Ci ho messo gli spinaci questa volta, sai, tipo la focaccia. Ma mica era quello lì, speriamo, che era là sopra, che si sentiva l'odore, sì. Oh, mi dispiace. Cioè, mentre io ero qua a fare il corso tecnico alla puntata precedente, mi dispiace, avete mangiato il mio calzone. Vabbè. Ascoltiamo un po' di musica prima che mi litigate. Ascoltiamo Ain't a Sunshine, calzone e gamberetti. Ed eccoci ancora qui sui Colori dell'Anima per questi ultimi 5 minuti insieme. E oggi abbiamo conosciuto un po' come, grazie a delle iniziative così personali, possono nascere veramente delle, insomma, delle belle cose, non soltanto a livello uditivo ma anche a livello culinario. E all'iniziativa, anche come diceva la saggia nonna Maria sempre ragione, diciamo, incoraggiamo gli ascoltatori per questo 2012 a bagnarsi la coda per darsi da fare, in poche parole. Bisogna darsi da fare, rischiare. Chi non risica non rosica, alla fine sarebbe il proverbio di mia nonna. Esatto, ed è proprio per questo che, per chi non risica non rosica, allora Angelo Gregorio sarà alla FNAC il 4 febbraio di Ghent, la FNAC di Ghent alle 15, mentre a Bruxelles sarò a fine mese, l'ultimo sabato 25 febbraio, alla FNAC di Toisondor, quindi vicino Porte de Namur, al primo piano, sempre alle 15. E invece calzone gamberetti. Sì, vi aspettiamo venerdì 20 gennaio alla Guguta Pepe, Avenue dell'Ippodrome 135, alle ore 20, quindi un po' più presto, mentre alla Porte Noire venerdì 9 febbraio alle 22. Esatto, e allora come non ringraziare il trio, anche se non c'è il terzo, se volete ancora salutare, lo vogliamo ancora salutare. Sì, un abbraccio fortissimo a Olivier Fagnuel. Ciao Olivier. Ciao cugino. E allora grazie al trio Calzone Gamberetti, grazie a voi che ci avete ospitato, a Cristina in regia, a Monica qui di fronte che ci irradia con la sua bellezza e il suo savoir faire. Certo. Meno male che c'è Monica. Meno male che c'è Monica, sì, che mangia calzone e gamberetti. No, la pizza me la sono rosa. Mangiata io, quello lì. Ecco, io andrò a mangiarmi loro i gamberetti in salsa rosa. E grazie appunto a voi ascoltatori, vi auguriamo un buon anno, un buon 2012, una notte piena di desideri, come dicevamo all'inizio, ma anche un anno pieno di desideri, no? Di desideri, di iniziativa, di sapersi bagnare la coda. la coda del gamberetto, e soprattutto di mangiare. Ah sì, bisogna mangiare. Ecco, di mangiare, e non diciamo la conseguenza, perché l'altro punto. Ed ecco, con questo pezzo di Cristina con La Luna Busso. Esatto, Angelo Gregorio, La Luna Busso. Canzone e gamberetti, ecco. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento al prossimo lunedì, sempre su Radio Alma, I Colori dell'Anima 101.9. Buona serata. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.